avanti. Buonasera. Buonasera a te. Sì, chi ti ho conosciuto? Fabrizio. Ah, Fabrizio, a posto dalla sala. Tutto a posto, niente in ordine. Ui. E me? Ui. Ciao Fabrizio, ciao Cristian. Ciao Luca, ciao Cristian e poi mi sembra Claudio. Non volevo entrare, ti dice a vedere se sono qua a portata e mi riconosce. A chi? Cosa c'è detto? Ah, Fabrizio, ti dice a vedere se mi riconosce se sono qua a portata col barracchino. Già di altro l'ho conosciuto. A chi? Cosa c'è detto? Fabrizio. Eia, col baracchino. No, Claudio la Villa, so. Ho casa poi di Vella o la Canella. Proprio Cadella. E allora che si dice? Va bene esce sto barracchino, sì. Esce bene. E tu che sei in domo? Esce benissimo Claudio, lascialo così. Sì, sto aspettando, glielo so, esce bene. Esce a casa Fabrizio. Perché ho fatto la notte, devo fare un'altra notte, sono passato in garage e poco fa se sono in casa che stavo controllando un motorino ovviamente. Devo ricontrollarlo, si riesco con questo accendere. E ho visto uno, adesso vedo se riesco ad acquistarlo. Ascolta, devo fare una prova a 28.500. Pronti, fammi accendere 9.20, 28.500, aspetta che vado. Ciao ragazzi, a dopo. A dopo, un attimo. Ehi, Luca, sono qua. Guarda, mi sentite, dai. Sentite la sala d'Alghero, dai. Ho capito, no. Mi sentite l'Alghero? Sì, Alghero. No, non sono proprio Alghero, Non sto scherzando. Sei un bel forte, 9.20, sì. No, sono l'Alghero, mi sto salendo, sono dentro le Fertiglia, mi sto salendo a Sassari, perché c'è mio padre ricoverato all'Alghero. Però niente di grave. No, sono già ripreso, grazie a Dio. Adesso posso divertire anche. Cosa devi fare? Casino, qui. Anch'io sono la stessa parte, mia madre che non è che sta bene, purtroppo. Non sta bene. Mi tocca viaggiare ogni giorno, un giorno sono giorno no all'Alghero. Guarda, è una mezza di pelle di scatole, però non me ne frega un cacchio, lo faccio lo stesso. Sembra tuo padre. No, però c'è un problema, uso Alghero. Vabbè. Cosa ci vuoi fare? No, arrivi bene. Non so, posso immaginare che arriva bene. Alla grande. Ma cioè, anche tu mi ascolti bene, boh. Ti ascolto benissimo, è chiaro. Bene. Allora già sta funzionando tutto bene, guarda. Stava funzionando tutto bene. E me lavorando stai qui, sì? No, adesso mi sono messo in un po' a riposo, perché sono con le ferie, adesso riprendo a lavorare fra un po'. C'è bella? No, faccio altri lavori, faccio manutenzione io. Che buono, dai. Faccio manutenzione campi da tennis. Interessante che ogni mese mungano. Va bene. Casino, lavoro un casino. Adesso sto pensando, se vediamo, faccio un curriculum. Voglio fare la guardia portierata. Ma provaci, sei consigliente riesci a entrare, se non conosci nessuno, scordatelo. Ci vuole un curriculum, no? Sì, ma ci vuole anche il calcio del QSO. Vabbè, anche quello, ma adesso vediamo, se non pazienza, fai giù di qua. No, va attento a vedere. Prova con la Virgipol. Virgipol lavora anche all'Alghero, Chi su chi è? Basta farlo. Basta che si lavori. E sì, che ogni mese ci sono stipendi. Virgipol sta facendo guardia alla sbarra e all'ospedale d'Alghero, all'ospedale civile. Chi? La Virgipol. Stavo cercando, non ho capito. La Virgipol. Ma li stanno cercando, chi lo sta facendo? Tu? Ma no, c'ho amici lì che stanno facendo, sono all'Alghero, nella guardiola, al cancello e anche dentro l'ospedale. Ho capito. Capito? Adesso vediamo qui. Vediamo come va, se riesco, potrebbe essere. Penso che sia semplice. L'unico problema è che non devo avere precedenti penali, deve essere pulito, sennò non entri, capito? è quello, ma non lo voglio fare con una armata, sono così portierati, puntati. Va bene, che ci dici sì? Ma il signore ha abbassato? Prova. Ha abbassato poco a poco? No, beh sì. Ah, già funziona. Sì, a buglia, alla grande. Ah no, era sotto attaccato col Boeing, sotto il culetto. Anche io sono agganciato. No, 747 sotto la fondo schiena. Anche io, uguale. Mi ho procurato una portante, Ehi, ehi. E mio nuovo nuovo, l'ha lavato Giuseppe, ma l'ha venduto. Giuseppe è tornato. Ma che mio nuovo nuovo, Guarda, c'era mio fratello conservato. Me lo sono preso subito al volo. Ehi, ehi, Antonio, sì. Vabbè, so chi è fratello. Emanuele. Emanuele fa solo polli, pizze e gastronomia. Ma sai che lui modulava, no? No. No, ma non è mai modulato, Ma non gliene è mai fregato, allora. Esatto. Modulavo io e mio fratello grande, basta. Sì, ho capito. E va bene, dai. Ciao, papi. E se non va bene facciamo andare il B. Sì, ma io già non ho problemi, non dico, va bene, ormai è sempre così, mi fa sempre la frutta a me. Beh, certo. Oh, c'è traffico a Sassari, Fa la schingio. Che traffico? Adesso papà deve essere ricoverato, così. Sì, lo rimetteranno, forse mi fa 15 giorni, speriamo. Un casino, ecco. Un casino. Poi ad Alghero. Non è una passeggiata? Vabbè, piano piano, già non è lontano lontano. Ma perché lo dici? Stai viaggiando io da Alghero, avanti io da Alghero, oggi sono da Alghero e domani sono ad Alghero, poi lunedì non ci vado e poi da martedì. Bisogna farlo qui, per forza. Sì, guarda, per me, a me non me la cambia la vita, a me, scendo dal Ghero, scendo da Ulissano, scendo da Porto Torres, basta che guarda, ho compagno di Piazza d'Italia, non ti accompagno di certo, vai tranquillo. Beh, certo, che vuole entrare, va. Buonasera. Aspetta un secondo. Come va, come va? Abbassa che sei troppo alto, abbassa. Ecco qua, tassa delta a 1, va bene così? Adesso è più meglio, sì. Più meglio, più bene, è bello. Grazie, più migliore. Esattamente, esatto. Questo è il microfono sa delta, MC40. Vedo che va bene, ogni tanto funziona. Si arriva a casa, meno male. Ciao. Adesso funziona. È apparecchio che non lo uso. Aspetta un secondo. Lo metto la C. Ok. 10 watt. Ecco fatto. Adesso come va? 40 watt e tondi tondi. Meglio mi ascolti. Va bene, sono parte mia. Sì, ma è troppa amplificazione. Lo sai che il salerno è salerno, non è che... Con 140 io... È come avere un coso, un Ferrari, tale è uguale. Solo c'è un televisore acceso della camera da letto, quindi si sente tutto. Ecco fatto. Adesso ho diminuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luca, sparito sì. No, io sono ancora qui, va tranquillo. No, sono qua, aspetta, ma se non mi rispondo sto mandando messaggi. Su internet. Ho capito. Andà bene. Alle ragazze, ma scalzone. Pio Rironi, questo Luca è... c'ha la fila, c'ha la fila, 15-20 per volta, ma la mano l'ha fatto il DG, sono guai, l'avrebbero spalmato di maionese. Ragazzi, mille donne, le mani di cazzate. Sono dei cazzati. Pompo, non dica stati, Pompo, non dica stati, già, fai da bravo. No, è così, però io ho donne io. Sono fedele. Ho detto, se questa avuto donne, ti avrebbero spalmato di maionese, ho detto, non è che c'hai donne, non te l'ho detto che c'hai donne. Se avessi avuto donne a questo, ti avrebbero spalmato di maionese. E vabbè, che non mi hai sentito, ma comunque. Aspetta che io lascio con panino. Tipo panino, bravo, ci sei arrivato. Ho detto che c'hai 50 donne, ci mancherebbe. Te ne basta una, basta avanza, come io con Simona, eccetera. Una è poche, due sono troppe. Ho capito, cosa hai detto? È sparito, Ciucucciù, perché non fa più BP adesso questa cosa, aspetta. Adesso già ci siamo. Ok. Tipo di TV dietro, il rumore delle ventole, un casino. Senta, due minuti che sta con questa telefonata. Adesso mi senti, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, provo, aspetta un secondo. Qua c'è solo inserito. Vabbè, sento un giro la telefonata perché cazzo lo sento. La roba che la senza antenna, scendo di watt, scendo a 10, ok. Allora, si stava dicendo che in pratica questo computer è, vabbè, c'è scritto Prodex K eccetera eccetera, H3BTBQVBC236K8H4CXDQT7H6, è della Microsoft. Allora, modello, HP, vabbè, tutto questo della serie, altre immagini che ho scritto tutto in giapponese. Produzione Compact 6720S, Allora, HP Compact 6720S. Poi c'è scritto sotto SNCNU8251VB2. Fu vecchiotto, piace vedere. Allora, HP Compact 6720S. Allora, vediamo un po' di DDR2. Allora, aspetta, vediamo. Intel Dual Core. Duo T 7650. TST, vabbè, DVD, RAM, Già si può, 32 byte, di sistema operativo, sì, già si può fare. Poi c'ho anche una cosa per fare gli aggiornamenti, è Windows 7. Vabbè, lasciami incassare e poi te lo do e così si apre. Non c'è nessun problema. Lasciami incassare appena per discutere e te lo do. Così. Aspetta che abbasso il coso, il PMF. Così almeno me ne programmi e me lo utilizzo più che altro per il coso, non per l'altra, basta che funzioni, capito? Ma poi vabbè, se il sistema operativo poi esiste un anno e mezzo, quello che non sbatte un cazzo, basta che funzioni, si cancelli tutti i programmi vecchi che c'erano e che sono stati messi dal vecchio proprietario, che vabbè, con il computer aperto praticamente puoi sicuramente usare, cancelli tutto e ci metti altre cose totalmente differenti, cos'è quello. Ma funziona il nostro computer? Sì, funziona, accende, tranquillo, posso entrare, guardarmi le foto, il video, quello che è, capito, è aperto, non c'è nessun codice né niente, funziona benissimo, c'è anche il CD, quello che non c'ha l'altro, piccolino, che avevo pagato 80 euro, figurati tu, un sacco di anni fa, quindi questo è molto meglio di quello che stavo usando io, figurati tu. Si può fare quello, se mai ci aumenta il RAM, se ne ha due ci porta quattro, poi bisogna vedere la memoria hard disk. Vabbè, questo vabbè, è un lavoro tuo, non è che c'è un lavoro mio, io faccio sei mountain tour, quindi il discorso è diverso, ognuno ha un lavoro suo, quindi vedi tu, mi dici va, Antonè, c'è la spella del sotto, fatto per dire, e io ti dico ok, fallo, non c'è nessun problema. E ti pago. Se mi dice per dire, tanto non vale la pena. Prendo, te lo lascio, primo cassone che trovi, quello che vuoi, te lo rampi, il discorso è quello. A un certo punto. Beh, certo. Vabbè, alla fine bisogna vedere la DDR2 dovrebbe avere qualcosa. E tutto gli prende l'hard disk. Poi mi ha detto che vuoi Windows 7. Ecco cosa ti serve per navigare, cosa devi fare? Ah, per esempio ti pianto. Per programmare quelle fotocellule che stanno facendo adesso, ho capito, il discorso è quello. Sai, ci sono quelle fotocellule che mettono la bricome, che vendono la bricome, mi scarico il programma, dopodiché da lì mi faccio la programmazione, hai capito, delle fotocellule che vendono per casa, ma sono belle mie, la verità, quelle fotocellule. Ne ho pensato una col telefonino, ma è una cosa allucinante, ci puoi anche parlare addirittura con l'altro. Sono prove, costano 50 euro, ma c'hanno una cosa, un video, cioè un... si vede l'immagine, in HD si vede, ma veramente, veramente bella, c'è lo zoom, vedi tutto, vedi, ci puoi anche parlare, tanto per dire. Tu senti a loro e tu puoi parlare con loro, volendo, capito? È bello per quello. Certo che sì. E adesso già si può fare. Sai quali sono quelli brutti da fare? Che quando si possono anche fare, ma sono lenti. Quelli grigi, tutti grigi, quelli sono ben vecchi. Nero tanto quanto. Ho notato che quello tuo non ha manco la webcam incorporata. Faceva un po' vecchiotto, adattato, dai. Fabi, se mi devi chiamare, chiamami a 525 che sto guardando la partita. Che roba ha fatto Vladimir Milosciulia? Ho capito. Cosa? Stavo per seguire la me di andare in 525. Ah, Fabrizio, sto dicendo una rubescia a te. Vedi la patente prima. Non vuoi mancare la macchina. A Fabrizio eravamo in 10 metri. Sei qua in ascolto, se mi devi dire qualcosa sono a 525 in bocchetto. E sto guardando la partita. Un minuto e io ho già segnato. Va bene, a dopo, ciao. Avrebbe subito la via della macchina, pompone. Come si può entrare in radio? Allora, aspetta di Liscia, sono manco rientra in radio. No, non ho patente io, né di moto né di macchina, quindi l'unica cosa me la può prendere, ma non penso di prendermela proprio, la verità, no, non mi interessa, ma l'unica cosa che mi voglio pigliare, prendere anzi, no, per pigliare, è quella per poter uscire a fare la spesa che mi interessa di più. Che è meglio, a me non prendo acqua. Vabbè, sto guardando la partita, ancora ci sentiamo dopo, io vado a farmi la doccia che poi me ne esco un po', dai, ci sentiamo più tardi, io sono qua comunque, dai. Juve 1, Roma 0, chissà, va bene, dai. Ciao Lucia, sportivo, sembra che sia partita bene quest'anno, un bel gol ha fatto, un minuto. Voi siete andati di brutto, male, bruttissima partita, vabbè, ci può stare, il campionato sta iniziando, vai. Buona noce, buon tutto, ci sentiamo più tardi, carriera. Ciao, ciao, più tardi, ciao, ci sentiamo. Sì, Antonio, a dopo, dai, che mi sto guardando la partita. Già mi mangio la pizza dopo, a tre partita, chi vuole vinca, chi vuole perdere ce l'ha quello. Chi potete mangiare a voi, a via in culo la partita, cazzo. Ce la faccio a spendere soldi, cazzo, guardabela. Me la guardo gratis, sì, mi. In pizzeria. Sì, non vabbè, te lo mira. Adesso ce l'aiuto. Con Roma Juventus. Va bene, vai, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao, ciao, dopo, ciao.